Avventurieri, in lontananza si percepisce la presenza di una costruzione antica con una porta imponente di legno massiccio. Perché non provate ad avvicinarvi?